amici come te si sono perse e aspetti che si aspettino nuove fortune, ma sono lì, non mi guardare mentre tento di dirigermi. Nel letto dei tuoi sogni io riposo bene, ho riordinato le lenzuola solo per te, per me nascondo 30.000 respiri e il taglio. E se pareti lontananza ora son più vicine, e ora fuggono nuovi pazienti sopra mesi fa, vorresti accompagnarmi per salutarle insieme, vuoi dire addio? E sono lì, si sono perse, e le magie trasportano fragili doni che vuoi metter mano, sfogliare insieme, rendere forti accudendo le ore qui. Il caldo dei miei desideri hai attraversato, il gelo delle mie paure ora avrai. La primavera lascia spazio a nuovi doni, o non lo sai? Che mi hanno consigliato di coprir bene, tu per coprirti puoi venire più in qua, e mi hanno detto ora assaggia le persone intorno a voi. E siamo qui, ieri che sole e oggi freddo che promette caldo, mi dai del tu, ma non guardare mentre tento di dirigermi. Nel letto dei tuoi sogni io riposo bene, ho riordinato le lenzuola solo per te, per me nascondo 30.000 respiri e il tempo mio. Nel letto dei tuoi sogni io riposo bene, ho riordinato le lenzuola solo per te, per me nascondo 30.000 respiri.